Arriviamo a Napoli e ne parliamo con Pino Carbone, che proporrà due spettacoli, due Penelope Ulisse al Piccolo Bellini dal 31 ottobre, quindi da oggi, fino al 5 di novembre, e poi l'Armata dei Sonnambuli al Teatro Nuovo dal 3 al 5. Allora, intanto Pino, benvenuto al Radio Teatro su Onda Rossa. Ciao, ciao, buongiorno, grazie a voi. Ciao. Allora, una doppia proposta, ci cominci a raccontarla? Sì, in realtà sono due lavori nati, insomma, in un momento, l'uno successivo all'altro, immediatamente successivo all'altro, per due motivi diversi, con due obiettivi completamente diversi, che però stanno insieme per quanto riguarda, insomma, tutto da un punto di vista del linguaggio, utilizzato, insomma, in lavoro sulla concretezza scenica, che poi, insomma, e soprattutto sulla frontalità, cioè l'idea di comunicare il più possibile direttamente al pubblico, insomma, avere la frontalità e il comprendere il pubblico all'interno del lavoro. Quindi sono due lavori sulla comunicazione diretta, in questo senso. Quindi l'idea è di metterli assieme, anche se hanno una natura completamente diversa. C'è questo disegno comune. Allora, partiamo dal primo, due Penelope Ulisse. Intanto inquadriamolo, di cosa si parla, qual è la storia? Guarda, questo lavoro è nato con due suggestioni. La prima è un'ispirazione nata dalla performance di Marina Abramovic di Artists Present, al MoMA di New York, dove a un certo punto in questa performance, dove lei seduta su una sedia fissava chiunque si sedesse di fronte a lei, a un certo punto arriva il suo vecchio compagno, il suo compagno storico, insomma, sia nella vita che nel sia artistico, col quale non si vedeva da 30 anni, insomma, e lì in quel momento l'impatto emotivo sovvertì l'idea dell'impassibilità, insomma, della performance. Da questo episodio, in quel momento io stavo lavorando, insomma, ero stato invitato a un festival a Buenos Aires, quindi stavo facendo tutta una ricerca sui desaparecidos, insomma, mi interessava questa questione, quindi l'attesa, e da lì l'idea di appunto prendere quella suggestione e questa materia e lavorare sull'incontro tra Penelope e Ulisse. Un incontro che poi diventa un incontro privato, diventa un incontro intimo che andiamo ad esplorare, quindi un lavoro proprio sulla relazione, appunto, che poi ha debuttato a Buenos Aires, insomma, quindi il lavoro dell'attesa, l'odissea dell'attesa di Penelope, sì, che poi a un certo punto si incontra con l'odissea dell'essere stato esule e del cercare di tornare di Ulisse. Sì, sì. Quindi diventa un lavoro su un incontro intimo, privato, che viene però comunicato all'esterno in tutti i modi possibili. Questo è, insomma, così, in maniera breve, l'incipit di due Penelope Ulisse, che attinge molto da altre forme artistiche, in particolare parti del testo si rifanno a un libretto d'opera, quindi seguiamo la struttura del melodramma, ma anche all'arte visiva, cioè c'è un'idea scenografica che riprende De Chirico, insomma è un lavoro che cerca di mettere dentro un discorso artistico in maniera un po' più ampia, per dare materiali ai due personaggi, materiali di vissuto ai due personaggi che poi si incontrano e su questi si confrontano. L'altro lavoro, invece, per l'altro lavoro c'è un'ascendenza letteraria e contemporanea. Certo, più precisa, più chiara, appunto, l'Armata dei Sonnambuli del collettivo Wuming, l'ultima opera collettiva dei Wuming che prende in analisi, insomma, che affronta i due, in particolare due anni della Rivoluzione Francese, gli anni cosiddetti anni del terrore, immediatamente dopo la decapitazione, appunto, del re Luigi Capeto, e quindi affronta in particolare questi due anni. La cosa che ho trovato immediatamente interessante, per cui poi è diventata una materia per me affascinante, oltre alla questione, appunto, legata al contemporaneo, cioè il discorso che affronta delle storie personali, delle storie individuali, sono in particolare quattro personaggi più uno che in qualche modo fa da narratore, che come dire, attraverso loro, la loro esperienza personale all'interno della rivoluzione, il loro modo di partecipare, il loro modo individuale di partecipare a una rivoluzione e quindi a un movimento collettivo, mi sembrava un'ottima occasione, insomma, per affrontarlo dal punto di vista teatrale, premesso che loro, il collettivo Wing, già in qualche modo ha tiene il teatro in grande considerazione all'interno di questo romanzo, dividono l'ho capito, li dividono in atti, parlano, c'è un overture, insomma il punto è partire dalla decapitazione di Luigi Capito ed arrivare alla decapitazione di Robespierre, quindi come dire, due anni in cui c'è un ribaltamento dell'ordine sociale, che però diventa a sua volta, per le storie individuali, per le storie personali, diventa una nuova gabbia, quindi un nuovo rapporto di potere, con i quali appunto individui si devono necessariamente relazionare, devono partecipare oppure ostacolare, insomma, quindi l'idea del lavoro è quella appunto di concentrarsi sui singoli personaggi che si muovono all'interno di questo grande sconvolgimento sociale. Ecco, in questo lavoro il passaggio dal testo alla scena, che tipo di lavoro hai fatto? Chiaramente è stato il lavoro più, come dire, più importante, anche più faticoso probabilmente, nel senso che il romanzo ha più di 800 pagine, continui riferimenti storici, ambientazioni, personaggi, quindi insomma era una mole di lavoro molto certo, molto grossa, molto importante. Mi sono rivolto a Linda Dalisi, una drammaturga molto molto molto brava, molto forte, molto impegnata, con la quale insomma da un po' di tempo cercavamo di incontrarci e di lavorare assieme, quindi insieme a Linda Dalisi, che poi si è occupata concretamente della trasposizione teatrale, insomma di una riscrittura teatrale del romanzo, appunto immediatamente ci siamo concentrati sui singoli personaggi, quindi abbiamo provato a ripercorrere le storie di questi personaggi, rendendole una sorta di racconti personali dove gli altri personaggi partecipano alla storia di ogni individuo, semplicemente cercando, come dire, di aiutare a metterla in scena. Si parla proprio di una, sì. Il pubblico assisterà proprio al tentativo di costruire lo spettacolo, così come i personaggi tentano di costruire questa grande rivoluzione. Sabato 4 ci sarà l'incontro anche con i Wuming, ecco, il rapporto con loro com'è stato? No, con loro è stato molto, come dire, loro hanno molto osservato da lontano il lavoro, immediatamente ci hanno, come dire, detto di, cioè, loro sono molto curiosi del risultato, perché hanno, come dire, ci hanno lasciato veramente molto molto liberi, è stata una loro voglia, una loro esigenza quella di poi capire quale come un linguaggio teatrale riesce a leggere appunto certe operazioni, quindi come le riesce a trasformare, quindi hanno avuto un rapporto, sono stati presenti ma a distanza, in maniera molto molto molto discreta e molto appunto attenta, ma erano proprio incuriositi da quello che era il nostro sguardo, il nostro linguaggio, sì, e quindi nei momenti in cui poi venerdì vedranno lo spettacolo, sarà un momento importante, perché sono due linguaggi che in qualche modo si confrontano. Certo. Allora ricordiamo l'appuntamento: due Penelope Ulisse al Piccolo Bellini da oggi 31 ottobre fino al 5 di novembre, e l'Armata dei Sonnambuli al Teatro Nuovo dal 3 al 5 di novembre. Pino, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Un abbraccio fortissimo a voi, grazie mille. Ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao ciao.